se tu guardi la notte sognando e una stella svanisce nel cielo, non tentar di saper, non domandarti il perché. Non pensare che il sogno svanisca inseguendo la stella cadente, non turbarti perché nulla è finito per te. Dolcemente scivolando per il cielo, altre stelle ti daranno l'illusione, capirai che c'è qualcosa di più vero, capirai che non c'è vita senza amore. Come un libro di sogni svaniti mentre guardi la notte sognando, le promesse d'amor vibranno ancora per te. Dolcemente scivolando per il cielo, altre stelle ti daranno l'illusione, capirai che c'è qualcosa di più vero, capirai che non c'è vita senza amore. Come un libro di sogni svaniti mentre guardi la notte sognando, le promesse d'amore vivranno ancora per te.